Namo tassa bhagavato arahato sammāsambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sammāsambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sammāsambuddhassa. Homage to the Buddha, the Blessed Noble, and Fully Self-Enlightened One. Omaggio al Buddha, al Beato, Nobile e pienamente autoilluminato. So this evening, to take us towards daily life, we have to revise our understanding of karma. Quindi questa sera, un po' per accompagnarci verso la vita quotidiana del dopo ritiro, dobbiamo cercare di capire bene gli insegnamenti intorno al karma. And for some it'll be an introduction, I think. Per alcuni sarà una introduzione. The first thing we have to understand is how the Buddha understood why things happen the way they do. La prima cosa che dobbiamo capire è com'è che il Buddha ha capito che le cose succedono nel modo in cui succedono. And then we have to know what he means by karma, personal karma, as opposed to everything else that might happen to us. E poi dobbiamo capire la distinzione tra il karma personale e tutte le altre cose che ci capitano. And that should take us back to dependent origination. E questo in qualche modo ci ricollegherà con la originazione interdipendente. And should help us in daily life. E questo questo insegnamento dovrebbe poi aiutarci nella nostra vita quotidiana. And somewhere I'll try and talk about rebirth, which is always a problem for us Westerners. E da qualche parte nel discorso parlerò anche brevemente della rinascita, che è sempre un concetto un po' difficile da capire per noi occidentali. Accept. O più difficile da accettare. Sì. So, when it comes to why things happen the way they do. Quindi quando si tratta di capire perché le cose capitano nel modo in cui capitano. This is called the this-that law. Questa è chiamata la legge del questo e quello. Because this happened in the past, this happens now. Poiché questo è capitato nel passato, questo capita ora. Because this did not happen, this does not happen. Poiché questo non è successo, questo non succede nel presente, adesso. Because this happens now, that also happens now. Poiché questo capita adesso, anche quello capita adesso. Because this does not happen now, that does not happen now. Poiché questo non capita adesso, anche quello non capita adesso. Obvious. È ovvio. So the first one is the one that we would normally understand by causality. Il primo esempio è quello che normalmente noi comprenderemo come un esempio di causalità, un rapporto di causalità. So because I went to work this week, I received my wages. Poiché sono andato a lavorare questa settimana, ho ricevuto uno stipendio. Ah. And because I didn't go to work this week, I didn't get any wages. E poiché non sono andato a lavorare questa settimana, non ho ricevuto uno stipendio. Ah. Now this presents a problem if we believe only in that historical causality. Questo però crea dei problemi se noi crediamo solo in questo tipo di causalità storica, cronologica, diciamo. Where would creativity come if all we're doing is being caused by something in the past? dove, come nascerebbe la creatività se tutto quello che facciamo è semplicemente dovuto a qualcosa che è successo nel passato. It would suggest a repeating universe, eh? Quindi questo suggerirebbe l'esistenza di un universo che si ripete. Morally speaking, it takes us to a belief in fate. Sul piano morale ci porterebbe a credere al fato. So in one form of Christian belief, the Calvin of Geneva. In una forma di credenza cristiana, per la precisione quella calvinista di Ginevra. And it was John Knox, who was a disciple of Calvin, who turned the Scots into Calvinists. E John Knox, che era un discepolo di Calvino, è quello che ha convertito gli scozzesi al calvinismo. Ah. Calvin said, God knows everything. Calvino diceva, Dio conosce tutto. So he knows from beginningless time whether you are going to heaven or going to hell. Quindi Dio sa dalla notte dei tempi se tu andrai in paradiso o all'inferno. Ah. So no matter what you do in this life, that's where you're going. Quindi non ha nessuna importanza quello che tu faccia in questa vita, perché comunque è lì che andrai a finire. Ah. In Eastern religions, at the time of the Buddha, there was a teacher who said, if you go down one side of the Ganges doing beautiful acts of compassion and love. Ai tempi del Buddha c'era un maestro che insegnava, se tu cammini lungo la riva sinistra del Gange e fai compi delle azioni meravigliose di compassione, di amore. And came up the other side with murder, theft, mayhem. E poi torni invece dall'altra parte del fiume facendo delle azioni tremende come assassinio, furto, sciacallaggio. Sciacallaggio. It would make no difference. Questo non farebbe alcuna differenza. Your karma is set. Perché il tuo karma è già prefissato. Ah. So, belief in everything happens now because of some past action leads us into these dead ends. Per cui questo credere che quello che succede adesso è dovuto a qualcosa successo nel passato ci porta verso questi vicoli ciechi. Cul-de-sac, how do you say? Sì, vicoli ciechi. Now on the other side, because this happens now, that happens now. Invece l'altra parte dell'esempio era, poiché questo succede adesso, quest'altro o quello succede adesso. And if this doesn't happen now, that doesn't happen now. E se questo non succede adesso, quest'altro non succede adesso. So, if none of, because we are all here, this retreat is happening. Poiché noi siamo tutti qui, questo ritiro ha luogo. Ah, if we weren't here, there would be no retreat. Se tutti noi non fossimo qui, non ci sarebbe il ritiro. Ah, this also presents problems. Anche questo presenta dei problemi. Because if something only happens because of something now, we can only presume chaos. Perché se le cose succedono solo perché qualcosa sta succedendo adesso, allora possiamo solo supporre uno stato di caos. Because there's no control. It's just happening now. Boom, perché and then it stops. Non c'è alcun controllo. Sta succedendo solo adesso e poi finisce. Morally speaking, it leads us to a position of why morality? Su un piano morale questo ci porta a una posizione del tipo, ma perché seguire una condotta morale? Because if I am compassionate now, there will be no effect in the future. Perché se adesso sono compassionevole, a cosa serve se non ci sarà un effetto nel futuro? Sì. So both both positions lead us into dead ends. Entrambe queste posizioni quindi ci conducono in un vicolo cieco. However, when we bring them together, then we have some sense of why things happen in the world and why there is creativity. Però se li mettiamo insieme queste due posizioni, allora comprendiamo, abbiamo un'idea di perché le cose accadono nel mondo e perché c'è la creatività. So, all of you came here from different points. Ognuno di voi è arrivato qui da punti diversi. If I ask any of you how you came here, you'll be able to describe the historical process. Se io chiedessi a ciascuno di voi com'è che ci sei arrivato qui, sareste in grado di descrivere l'intero processo storico. And also your own spiritual reasons for coming. E anche riuscireste a spiegare i vostri motivi spirituali per secondo i quali siete venuti. So because that happened in the past, you arrived here. Quindi poiché quello è successo nel passato, voi siete arrivati qui. But because all of us have arrived here together, then this produces a situation which has never happened before. Ma poiché siamo tutti arrivati qui contemporaneamente, questo produce una situazione che non si è mai verificata prima. There has never been this collection of people at before. Non c'è mai stata questo insieme di persone prima di adesso. And this creates this situation. All these lines of karma coming together into this moment. E questo crea questa situazione, cioè tutte queste linee karmiche, diciamo, che si incontrano per creare questo momento. So what this tells us is, yes, there is some order. Quindi cosa ci dice tutto questo? Sì, c'è un ordine. But also there is some unknowability. Però c'è anche qualcosa che non si può conoscere. Because you don't know at any given moment in your life what streams of karma are coming towards you. Perché non puoi sapere in un dato momento della tua vita quali siano questi fili karmici che stanno venendo nella tua direzione. We can only pray. Possiamo solo pregare. It doesn't always have to be bad. Non necessariamente deve essere una cosa brutta. So that is the basic reason why the Buddha says you cannot work out what is going to happen to you. Ed è per questo motivo fondamentale che il Buddha non dice mai, dice che tu non puoi mai sapere quello che ti capiterà. You'll never know what will happen to you. Right? No. And that of course leads us back to the idea of control, of who am I, of a self. I feel myself to be in control of my life, but actually I don't have that much control. E questo ci riporta a questa idea del controllo, del sé. Noi pensiamo di avere dentro di noi un sé, però ci rendiamo anche conto che non abbiamo un vero controllo della nostra vita. So that would be the sort of basic understanding of the Buddha as to why things happen. Quindi questo è il pensiero fondamentale del Buddha riguardo a perché le cose capitano così, in questo modo. Now, concerning ourselves, there are five laws which affect us. Per quanto ci riguarda, ci sono cinque leggi che ci influenzano. In the scriptures, somebody said to the Buddha, everything that happens to us is our own personal karma. Nelle scritture si riporta di un episodio in cui qualcuno dice al Buddha, tutto quello che ci capita è dovuto al nostro personale karma. And he said, no. He said, something can happen to you because of the weather. Or because a king gets upset with you and chops your head off. Dice, no, non è vero. Potrebbe capitarti qualcosa a causa del tempo atmosferico, per esempio, oppure un re che ha deciso, si è arrabbiato e ha deciso di tagliarti la testa. Sì. So this was later classified into five categories. E quindi tutto questo è stato poi inserito in cinque categorie. And they match well the way that we ourselves see the world. E questi coincidono bene con il modo in cui noi riusciamo a vedere il mondo. So first is all to do with the law of heat or energy. Il primo ha a che vedere con la prima legge ha a che vedere con la legge del calore o dell'energia. Uttu. And what this relates to is all our physical laws, the laws of physics and chemistry. E questo si riferisce a tutte le leggi fisiche, cioè la fisica, la chimica. So for instance, in that terrible earthquake in Italy, was it AC? Where was it? Aquino? Where was it? Aquila. The bad one. Eh? Aquila. Aquila. Per esempio, il terremoto dell'Aquila. So many people were caught up in that and suffered greatly. E ci sono state molte persone coinvolte e hanno sofferto molto. But the earthquake happened because of laws within the earth, not because they deserved it. Ma il terremoto è successo a causa di leggi interne alla terra, non perché loro se lo sono meritato. In the East, where they tend to think of everything happening to you because of your personal karma. In Oriente, dove molte persone pensano che tutto ciò che ti capita è causato dal tuo karma personale. Then if there's an earthquake in the East, they will say that maybe in your past life you crushed a thousand ants. Se c'è un terremoto, se sei coinvolto in un terremoto, ti diranno, beh, questo è perché in qualche vita passata tu hai schiacciato centinaia di formiche. They will try to make some logical connection. Cercheranno di fare qualche collegamento logico. And this I suppose alleviates the heart of its shock and wonder. You know, a shock and what's the word? Not wonder. Shock and questioning why, you know, why me, you know. E questo però in qualche modo dà un po' di sollievo al cuore che si chiede perché è successo proprio a me. Unfortunately, there are stories in the commentaries especially which reinforce this sort of understanding. Did you say unfortunately? Unfortunately. Sfortunatamente, yeah. Però ci sono delle storie nei commentari più che altro che rinforzano questa idea. There was a ship going along going somewhere, and it, even though the wind was good, the ship stopped in the middle of the sea. C'era una barca che stava navigando in mezzo al mare, e sebbene il vento fosse favorevole, questa barca si è fermata in mezzo al mare. So the captain asked these very wise group of monks as to why this had happened. Allora il marinaio ha chiesto a un gruppo molto saggio di monaci il perché di questo fenomeno. They went into deep meditation. Sono entrati in profonda meditazione. And then when they came out they said to the captain, it's because of your wife. Allora quando sono usciti da questo stato di profondo samadhi dissero al capitano, la causa è tua moglie. In her past life she drowned a lot of kittens. Perché nella sua vita passata ha affogato un sacco di gattini. The only way this ship will move is if you throw her overboard. No. L'unico modo in cui per poter proseguire con il viaggio e quindi andare avanti con questa barca è di buttare a mare tua moglie. This the captain proceeded to do. E il capitano lo fece. And the ship moved on. E la barca andò avanti. Proseguì il suo cammino. No, it's very. So you can see how Easterners can understand that everything that happens to me must be because of my personal karma. Quindi vedete che come gli orientali pensino che qualunque cosa che mi capiti ha a che vedere col mio karma personale. The next law is the law of the seed, bija, which is our biological laws. La seconda legge è quello del seme. O bija in, in Pali, ed è la legge biologica. Of course they didn't understand, you know, what happens in the way that we understand now, but they the Buddha understood that certain things were given to you because of your genetic heritage. Yeah? Ovviamente ai tempi del Buddha non avevano tutte le conoscenze che abbiamo noi adesso, però il Buddha aveva compreso che alcune cose che ci capitano sono dovute alla nostra eredità genetica. So we know that the body that we are born with is something that is compounded from past generations. So. Noi sappiamo che il corpo con cui nasciamo è messo insieme. Composto, diciamo, da, come dire, dall'effetto di generazioni passate, dal lavoro di generazioni passate. But again, you know, people will think that because you're born, say, with an inherited disease, that somehow you deserve it. Però ci sono ancora persone che credono che siccome tu sei nato con una malattia genetica, è successo perché te lo sei meritato. I remember I was at Amravati one year. Un anno ero ad Amravati. Amravati is a big monastery just north of London. E questo grande monastero a nord di Londra. And a young man came who had a genetic disease that completely crippled all his body, his legs and his arms. E allora è arrivato un signore, un uomo, che aveva una malattia genetica che aveva una specie di distrofia, no, muscolare di tutto il corpo. And his parents were told that it was a million to one chance that the next child would have a similar genetic disease. E ai genitori era stato detto che c'era una possibilità infinitesimale, cioè uno su un milione, diciamo, che il figlio successivo sarebbe nato con la stessa malattia. But as it happened, the daughter also suffered from this. Ma invece la figlia che hanno avuto, anche lei soffriva da questa malattia, di questa malattia genetica. But what was interesting was their relationship to their situation. Ma la cosa interessante era la loro relazione alla situazione. He worked out a very meaningful life around this problem. Lui è riuscito a costruirsi una vita significativa intorno a questo problema. But she was very bitter, embittered. Lei invece era molto amareggiata. So here we begin to understand where perhaps our personal karma lies. Quindi qua forse riusciamo a capire dove sta il nostro karma personale. Come entra in gioco, diciamo. Sì. The next one is cinta, which is equal to our psychology. La terza legge è quella di citta, che in qualche modo corrisponde alla nostra psicologia. And although it's normally also linked with what we would call sociology. A volte è anche collegato con quello che noi adesso chiameremmo sociologia. Because obviously a community is a combination of different minds. Perché ovviamente una comunità è una combinazione di diverse menti. And the Paticca Samuppada we did yesterday is part of that understanding. E il Paticca Samuppada che abbiamo visto ieri fa parte di questa comprensione. Another way to look at the, he gave us another two ways in which we can see the mind. The Buddha, excuse me. Ci ha dato altri due modi in cui possiamo vedere la mente. So the first one is the kanda, the aggregates. Quindi il primo modo è attraverso i kanda, cioè gli aggregati. And the second one was the ayatana, which is the spheres that we talked about. E l'altra invece sono gli ayatana, che sono queste sfere sensoriali di cui abbiamo parlato. remember that all his teaching is about finding out how we create suffering and how we bring it to an end. Ricordate che tutti i suoi insegnamenti riguardano come creiamo sofferenza e come la portiamo a termine. So in the five aggregates we start off with the body. Nei cinque aggregati, quindi, cominciamo con l'aggregato del corpo. Now the body is both the gross, what we can see and do things with. Il corpo è sia quello grossolano, le cose, cioè quello che utilizziamo per fare delle cose. But in our meditation, when we are at the point of contact, that is where the mind and the body meet. Ma nella nostra meditazione, quando siamo al punto di contatto, è lì che la mente e il corpo si incontrano. Ah, so when we go into the pain of the knee, but we're actually feeling burning or stinging sensations. Quando entriamo nel dolore, per esempio, di un ginocchio e riusciamo a percepire le sensazioni, per esempio, di calore o di bruciore o di formicolio, di punzecchiature. The Buddha would say that this is where we actually feel the body, the mind actually contacts the body. Il Buddha direbbe che questo è il punto in cui la mente contatta il corpo. And then we have the way in which we divide the world into pleasant and unpleasant, the feeling. E poi il secondo kanda sono sensazioni, piacevoli, spiacevoli o neutre, e cioè come noi interpretiamo il mondo. At a feeling level. Sì, però a un livello appunto di sensazioni. Then remember that when we have an experience, the mind always makes an image, a picture, a perception. Poi il terzo è la percezione, che ricordate che ogni volta che abbiamo una sensazione, la mente crea un'esperienza. Ogni volta che abbiamo un'esperienza, la mente crea un'immagine di questa esperienza, che è una percezione. And these perceptions grow into concepts. E queste percezioni poi crescono e diventano dei concetti. And they become our memory and our thinking process. E diventano i nostri ricordi e i nostri processi di pensiero. The fourth one is the sankharas. Il quarto kanda, il quarto aggregato, sono i sankhara. And the reason why the Buddha makes this a special category is because this is where we make acts of will. E il motivo per cui il Buddha fa sì che questa sia una categoria a parte è perché è proprio qui che noi compiamo degli atti di volontà. Ah, so this is where we create our habits. È proprio qui, a livello dei sankhara, che noi creiamo le nostre abitudini. This is what we can change. Ed è questo che possiamo cambiare. So this is where we experience our happiness or unhappiness at an emotional level. È qui che noi sperimentiamo felicità e infelicità a un livello emotivo. At a mental state level. A un livello di stato mentale. And then consciousness. E poi il quinto kanda è la coscienza. And remember, consciousness is just holding the image for us to be seen, to be known. Ricordate che per coscienza si intende ciò che tiene solo ci tiene l'immagine davanti, perché noi possiamo vederla, possiamo conoscerla. And it also, remember, holds the emotion. It holds everything. E tiene anche le emozioni, tiene tutto. Moment of consciousness. And then he also sees that, looking at it from the point of view of consciousness, there are six types. E poi un'altra categorizzazione, diciamo, suddivisione, visto dal punto di vista della coscienza, è che ci sono sei, altri sei tipi, altre sei categorie. Dependent on your sense base. E queste sono appunto le sfere sensoriali, dipendono dai sensi. The reason why he does this is to continue to deconstruct for us the idea of a person. Il motivo per cui presenta i fenomeni in questo modo è perché continua a volere destrutturare ciò che noi, cioè l'idea che noi abbiamo di una persona. Something whole, an entity, entire. L'idea che abbiamo di solito di qualcosa di intero, di un'entità, di completo. But actually it's a composite. In realtà è un composto. So this is not only to be understood intellectually, but to be seen. There are different parts, different pieces. E questo non è una cosa da comprendere intellettualmente, ma proprio da sperimentare, cioè vedere che noi siamo fatti da composti da diverse parti. And this is understanding not self. E questo è il capire il non sé. Then we have the fourth category, which is karma. E poi abbiamo la quarta legge, diciamo, che è il karma. So, we'll come back to that. The fifth one is spiritual laws. E ci torniamo sul karma, però adesso lo mettiamo da parte. La quinta legge è quella spirituale, sono le leggi spirituali. And this obviously is the teaching of the Buddha, the Four Noble Truths, etc. E questi sono gli insegnamenti del Buddha, le quattro nobili verità, eccetera. So now, when we talk about karma, if we go back to dependence origination. Quindi adesso parlando del karma, se ritorniamo per un attimo alla originazione dipendente. So there's we discussed a point where suffering happens, the point of identity. Abbiamo discusso di un punto, abbiamo parlato di un punto dove viene creata la sofferenza ed è quel punto dove c'è l'identità. So identificazione. Remember that at the point of vedana, feeling, pleasant or unpleasant, there is no suffering as such. Quindi ricordate che al punto di vedana, che è uno di quegli anelli, no? Quindi la sensazione di piacevole, spiacevole o neutro, a quel punto non c'è ancora la sofferenza, non abbiamo ancora creato sofferenza. Our reaction to what we're experiencing, whether by greed or aversion or fear. La nostra reazione a ciò che sta succedendo, che può essere di avversione o di avidità o di paura. Presents for us a relationship with what we're experiencing. È questo che rappresenta la nostra relazione con ciò che stiamo provando, sperimentando. And this we have developed. E questa è una cosa che noi abbiamo sviluppato. Maybe society has taught us how to develop it, but the development has been inward, within us. Quindi può anche essere che sia la società che ci ha insegnato a sviluppare questo tipo di relazione, però reazione. Però questa reazione avviene dentro di noi. So in our consumer society, we always want to get the best for the least amount of money. E nella nostra società consumistica noi vogliamo sempre ottenere il meglio con la minor quantità di soldi. So we're always looking for the bargain. Stiamo sempre cercando l'affare. That way of looking at life is taught to us as children. Questo modo di vedere la vita ci viene insegnato da bambini. But the actual mechanism whereby we grow in greed is an internal mechanism. Tutto questo meccanismo in cui noi praticamente cresciamo e diventiamo sempre più avidi, questo è un meccanismo interno a noi stessi. If my greed was actually directly created by the society, how could I get rid of it? Perché se la mia avidità o la mia brama fosse creata dalla società, come potrei sbarazzarmene, liberarmene? Even if I tried to get rid of it, they would put more back in. Anche se io cercassi di liberarmene, me ne metterebbero dell'altro dentro, di brama. Sì. So it's only because we create this relationship as a direct cause that we can get rid of it. È proprio perché siamo noi a creare questa relazione come causa diretta. Beh, per questo motivo che possiamo anche liberarcene. It's the same with all our suffering. E questo vale per tutti le nostre sofferenze. Remember, in Buddhist understanding, nobody nothing or anybody can be the direct cause of my suffering. Ricordate che secondo il pensiero buddista nessuno o nulla può essere la causa diretta della mia sofferenza. Now we have to be careful here, yeah, because if somebody stands on my toe, that's painful. Qui dobbiamo stare attenti, perché se qualcuno mi pesta un piede, beh, questo è doloroso. Ah, but that's not suffering in the Buddha's understanding. Ma questo non è la sofferenza, ah, secondo gli insegnamenti del Buddha. He calls this the first dart, you know. Sì, questo lo chiama la prima freccia. Mm. It's what we do when somebody stands on the toe that will produce suffering or not. È quello che noi facciamo come reazione a qualcuno che ci pesta il piede, è questo che ci creerà la sofferenza. O non ce la creerà, secondo. So if the person stands on my foot and does not know they're standing on my foot, then generally I would be patient and say, please, you're standing on my foot. Se la persona mi sta pestando il piede ma non se ne accorge, lo fa inconsapevolmente, di solito noi siamo gentili, diciamo scusa, ma mi stai pestando il piede. If the person stands on my foot and then says, oh, excuse me, sorry. Se la persona mi pesta il piede e mi dice, ah, scusa. And then I say, oh, no bother. Dirò, beh, non importa. But if somebody purposefully stands on my toe, then I get very angry. Ma se una persona lo fa apposta per starmi il piede, allora ecco che mi arrabbio molto. So these reactions tell us that they're an internal decision. E quindi queste reazioni ci dimostrano che sono dovute a una decisione interna. The Buddha calls this the second arrow. Il Buddha questa la chiama la seconda freccia. So remember that when he talks about the cause of suffering, the three characteristics, when he talks about the cause of suffering, quando parla della causa della sofferenza, he talks about the suffering caused because things change. Lui parla della sofferenza che è causata dal rendersi conto che le cose cambiano. Viprinama dukkha. The third one is of course sankata dukkha. The other cause of suffering is because things don't have any substance. We want them to be real, but they're not. L'altra causa di sofferenza è quando ci rendiamo conto che le cose non hanno una loro sostanza. Noi vogliamo che le cose siano reali e vere, ma non lo sono. And the middle one is dukkha-dukkha. Quello in mezzo, diciamo, è dukkha-dukkha. Which is the suffering caused by suffering. Che è la sofferenza causata dalla sofferenza. Or better, the suffering caused by a given pain. O meglio, la sofferenza che è dovuta a un determinato dolore. Whether this pain is whether it's an emotional pain or a physical pain or mental pain. Può essere un dolore fisico, mentale o emotivo, non importa. So, for instance, if somebody gets angry with me, what is actually happening? Quindi, se una persona si arrabbia con me, cos'è che succede effettivamente? Okay, I can see the anger in the person's face. Bene, io riesco a vedere la rabbia nella faccia dell'altro. So this stops at the eye. E quindi questo praticamente termina a livello dell'occhio. I can hear the harsh words and this stops at the ear. Io sento le parole dure, ma questo si ferma a livello dell'orecchio. And I can feel the angry emotion, but this stops at here, the heart. Sento l'emozione arrabbiata, ma anche questa si ferma a livello del cuore. So there's your first arrow, there's your first dart. Questa è la prima freccia. Now, the second dart is I respond from inwardly with anger. La seconda freccia è quando io rispondo da di dentro con rabbia. Sì? So, all our suffering, not pain, all our suffering is caused by ourselves. Quindi tutta la nostra sofferenza, non il dolore, ma la nostra sofferenza è causata da noi stessi. I could react to the person who's angry with calmness. Io posso anche reagire alla persona arrabbiata con calma. Yeah. So now, if other people caused my suffering, the only way I could bring my suffering to an end is by getting rid of other people. Perché se la mia sofferenza dipendesse da quello che fanno le altre persone, allora l'unico modo per liberarmi della mia sofferenza sarebbe di far fuori le altre persone. To get rid. I would have to get rid of all of you. Io dovrei liberarmi di tutti voi. Even if you don't make me suffer, you might make me suffer. Perché anche se non mi fate soffrire, però potreste farmi soffrire. Ah, sì. It's because nobody causes my suffering that I personally can achieve the end of suffering. È proprio perché non c'è nessuno esterno a me che può causare la mia sofferenza che io posso allora fare qualcosa per liberarmi della mia sofferenza. Mm. So this is one of the consequences of the Buddha's understanding. E questa è proprio una delle conseguenze della comprensione, di una comprensione del Buddha. Ah. So remember, when you are with your wife, your spouse, your partner, your friend. Quando siete con il vostro marito, moglie, il vostro partner, il vostro amico. So you cannot say, you make me angry. Non potete più dire, tu mi fai arrabbiare. È difficile, eh? You cannot say, you bore me. Non potete dire, mi fai annoiare, mi annoi. And on the other side, you can't say, you make me happy. Non potete neanche dire, tu mi fai felice. No, nobody makes you happy. Non c'è nessuno che vi fa, che vi rende felice. See? It's a very strange situation between people, eh? È una situazione molto strana questa che si crea tra le persone. To somebody who does not know anything about the Buddha's teachings, I wouldn't say to them that you don't make me happy. A una persona che non sa nulla degli insegnamenti del Buddha, io non direi mai tu non mi fai felice. So where are we? Yes. So our personal karma is to do with this internal atmosphere that we create. Quindi il nostro karma personale ha a che fare con questa sorta di atmosfera interiore che noi creiamo. This internal conditioning. Questo condizionamento interiore. Okay, so if we understand that, then we go on to the idea that what we do is either wholesome or unwholesome. Quindi se tutto questo lo comprendiamo, allora possiamo procedere con questa idea che ogni cosa che facciamo può essere o salutare o non salutare. Yeah. And this is where we connect with other people and the world. Ed è qui che noi entriamo in contatto con gli altri e con il mondo. So now, when I do something which is wholesome, an act of charity, for instance. Allora, quando faccio qualcosa che è salutare, per esempio, un atto di carità, beneficenza. Beneficenza. For instance, I give some money to a charity which is trying to do something about the Middle East crisis. Per esempio, io do dei soldi a una come si chiamano? Charity. Un'associazione di beneficenza che sta cercando di risolvere il problema nel Medio Oriente. Once I've done that, I don't know what's going to happen because of my action, my compassionate action. Quando lo faccio io non so quello che succederà grazie alla mia azione compassionevole. There was a charity in one of the cities of England, Totnes. C'era una di queste, come si chiama, un'associazione di di beneficenza? No profit, vabbè, avete capito, comunque una di queste associazioni in Inghilterra, in questa città che si chiama? Totnes. Totnes. they collected clothes to send to a poor place in Africa. Hanno fatto una raccolta di abiti da mandare in un paese povero dell'Africa. When the clothes arrived there, they of course destroyed the trade of tailoring. Quando sono arrivati in questo paese africano, questi vestiti hanno distrutto il mercato locale di sartoria. And this had a knock-on effect to the local economy. E questo ebbe un effetto a domino, diciamo, sull'economia locale. So when they realized this, they had to stop sending clothes to that particular community. E quando se ne sono resi conto, hanno dovuto smettere di mandare vestiti a quella particolare comunità. So just because we do something good doesn't mean that something good will come of it, because we don't know the situation into which we are putting this action. Quindi solo perché facciamo qualcosa di buono non è detto che poi l'effetto sia positivo, perché non sappiamo dove esattamente stiamo collocando questa azione benevola. We can never know the full the fullness of any given situation. Perché non conosceremo mai la complessità di una determinata situazione. But even so, the good act will create some benefit. Comunque, ciò nonostante, l'atto caritatevole o benevolo creerà un qualche beneficio. It may be that the people in that particular community at least felt connected with people in Totnes through that act of compassion. Può darsi che le persone in quel particolare paese dell'Africa si siano sentite in qualche modo connesse con le persone, a good connection. Una buona connessione con queste persone in Inghilterra che avevano mandato i vestiti. Not the tailors, of course. Ma naturalmente, non i sarti. That's the other side. So this, you know, we go back to the original laws which tell us that actually we don't know what's going to happen. E quindi torniamo a queste leggi originarie che ci dicono che effettivamente noi non sappiamo cosa succederà. There is even in physics this law of chaos that I think most of you know. Anche nella fisica c'è questa legge del caos. Which says that a given situation, a given condition, supported by other conditions, will either grow or die away. E quindi questa legge dice che una data condizione sostenuta da altre particolari condizioni o si svilupperà oppure morirà. And this is exactly what the Buddha teaches. E questi sono esattamente gli insegnamenti del Buddha. Yeah, in my own understanding. Così come li capisco io. So the example they give is always dramatic. Comunque l'esempio che danno è sempre un po' enfatizzato, diciamo. So a little butterfly wing in South America with supporting conditions becomes a hurricane in North America. Quindi uno sbattere di ali di una farfalla nel Sud America, in determinate condizioni, sostenuto da determinate condizioni, si trasforma in un uragano negli Stati Uniti, nell'America del Nord. You see? So, now, when we do a good act, it goes out into the world, into a situation that we can never know fully, and has an effect. Quindi quando noi facciamo un'azione buona, la buttiamo dentro il mondo, ma non sappiamo mai completamente che tipo di effetto avrà. It may be that small donation was what was needed to change a big situation in the Middle East, you don't know. Può anche darsi che quella piccola donazione fatta è servita a cambiare una grave e complessa situazione nel Medio Oriente, non lo possiamo sapere. But the other side of it is that when we do something, we also put something into our psyche of which the consequence we don't know. Ma l'altra parte di questo discorso è il fatto che quando facciamo una determinata azione, un'azione buona, diciamo, è come se mettessimo qualcosa anche dentro la nostra psiche, e anche qui l'effetto non lo conosciamo pienamente. So I might do something which is with a good heart, and the effect inwardly is just a little creation of a better heart. Quindi potrei fare un'azione con un buon cuore e l'effetto interno può essere semplicemente quello di un miglioramento, diciamo, in positivo del mio cuore, cioè il mio un cuore un pochino migliore. Ecco. But sometimes it happens to a person that when they do something good, there's a sort of complete change within them. Però a volte capita delle persone che quando fanno una buona azione c'è come un completo cambiamento dentro di loro. If a person has always been very selfish and it's created this anxiety around them. Una persona, per esempio, che è sempre stata molto egoista o egocentrica e ha creato molta ansia intorno a sé. And just intorno a questo aspetto di sé. And just in a given situation, they actually give something to somebody else and seize their joy. E in una determinata situazione riescono a dare qualcosa a un'altra persona e vedono la gioia nell'altra persona. And they are joyful because of that person's joy. E questa persona diventa gioiosa, si può dire, a causa della gioia dell'altra persona. Ah, this can have a sort of internal conversion. Questo può determinare anche una conversione interna. So, equally, doing something harmful can have an unknowable effect within us as well. E allo stesso modo, fare qualcosa di dannoso può avere un effetto dannoso dentro di noi. Un effetto che non conosciamo, che non possiamo sapere. So, we live in a very uncertain world. Quindi viviamo in un mondo molto incerto. We should be anxious. Dovremmo essere ansiosi. So, but the general rule is when you do something which comes from the good heart, there is always something good that happens from it. Ma la regola generale è che quando si fa qualcosa, si compie un'azione con un buon cuore, beh, qualcosa di buono ne deriva. So that's the understanding of karma according to the Buddha, of where personal karma lies. Quindi questo è così come intende il Buddha questa idea del karma personale. It has to be linked with dependent origination. Deve essere collegato con questa originazione interdipendente. So now, just as another question that comes up is, do you have to believe in rebirth? Un'altra domanda che spesso sorge è quella del fatto, dobbiamo proprio credere nella rinascita? If we can see very clearly what's happening from moment to moment, se riusciamo a vedere molto chiaramente quello che sta succedendo attimo dopo attimo, we can see that we are rebirthing. All the time. Noi possiamo vedere che stiamo rinascendo continuamente. That something from the past is moving into the present, again, but because of present conditions, there's a change. Che qualcosa dal passato sta entrando nel presente, ma a causa delle condizioni esistenti, qualcosa cambierà. See, it's the same fundamental law. È la stessa legge fondamentale. It's not this person now, what I am now, is not different and not the same. Quindi, from the person 2 minutes ago. Questa persona di adesso non è diversa, ma non è neanche la stessa della persona di 2 minuti fa. A different body, some cells have died and some cells have been born. Il corpo è diverso, alcune cellule sono morte, altre sono nate. My emotional state has moved. It may be the same, but it's either grown or decreased as time goes on. Anche il mio stato emotivo è cambiato, magari è cresciuto o è diminuito, magari lo stesso stato emotivo, ma è cambiato di intensità. Sì, and constant new thoughts just coming through the head. E ci sono costantemente nuovi pensieri che mi passano per la testa. So this psychophysical organism is being reborn from moment to moment. Quindi questo organismo psicofisico sta rinascendo attimo dopo attimo. So at death, and this is at death, what happens is the mental body separates from the physical body. E quindi cosa succede sul punto di morte? Che il corpo fisico si separa dal corpo mentale. Ah, so that process continues through the mental body until or if it gets to be reborn in a more physical state as a human. E quindi questo processo continua a livello mentale fino a quando e se capita che praticamente this process continues it's reborn either as a human being or it finds itself in a mental realm. Quando rinasce, quindi questo in un corpo fisico oppure in un livello di esistenza non fisica, un regno. Sì. Mentale, solo mentale, solo mentale, una sfera di esistenza mentale. Now, it's not necessary for us to believe any of that about future lives in order for the Buddhist teachings to help us in this here and now. Però non è necessario aderire a questa fede in qualche vita futura per poter applicare gli insegnamenti del Buddha nella nostra vita di adesso. And in truth, although the Buddha is very specific about present psychology, anche se il Buddha è molto specifico per quanto riguarda la psicologia presente, the whole mechanism of rebirth he hasn't really explained. Ma tutto questo meccanismo delle rinascite non l'ha veramente spiegato. See? So, in a sense, from his point of view, it doesn't really matter. Io credo che in realtà dal suo punto di vista non è poi così importante. Because there is no, really speaking, there is no future birth. Perché parlando in maniera realistica, talking in absolute terms. In termini assoluti non esiste un futuro. And there's no past. E così come non c'è un passato. There is only ever this present moment. C'è sempre solo questo momento presente. And it's here in this present moment that we have to develop ourselves towards a deeper happiness. È solo qui, in questo momento presente, che dobbiamo sviluppare noi stessi andando nella direzione di una felicità più profonda. I would say that those people who believe they are to be annihilated at death are better positioned for liberation than those who believe that they will go on. Io penso che le persone che ritengono che alla loro morte saranno annichilite, si dice in italiano, sono in una posizione migliore rispetto alla fine della sofferenza di quelle persone invece che credono alle rinascite. If you believe that you go on, it takes away your purpose for becoming liberated in this life. Perché se tu sai che comunque avrai delle altre vite davanti, toglie un po' dello scopo, diciamo, di volersi liberare in questa vita. Easterners will often tell you that they are building up good merit for the future life when they're going to become liberated. A volte gli orientali dicono che loro passano la vita a sviluppare dei buoni meriti per poi potersi liberare in qualche vita futura. Yeah, but how will they know when they have enough merit? E quando lo sapranno se hanno abbastanza meriti? So they'll just, in Buddhist understanding, they just keep being reborn. E quindi, secondo appunto gli insegnamenti buddisti, questi continueranno a rinascere. Now, if you believe that at death you disappear, se invece credi che alla tua morte sparisci, then there will come a point in your life when you really have to look at the fear of that passage. Allora arriverà un punto nella tua vita in cui tu devi affrontare questa paura di quel passaggio. And in overcoming fear and being and going into that process consciously, either you will discover that you're there again or not. E quindi affrontando questa paura e attraversando questo processo in maniera cosciente, o scoprirai che sei di nuovo in un'altra vita, diciamo, oppure no. You won't discover you're not there. Anzi, non lo scoprirai se non ci sei. So I often think that if you think you're going to annihilate, then you would work a little bit harder to achieve happiness here and now. Allora penso sempre che se tu ritieni che sarai annichilito, allora metterai un pochino più di motivazione nel liberarti in questa vita, nel qui e ora. And of course this disbelief was also at the time of the Buddha. E ovviamente questa credenza c'era anche ai tempi del Buddha. So this is what he said. If there is a future life, then what you do now will affect it. Allora, infatti lui diceva, se tu credi che ci sia una vita futura, allora quello che fai adesso influenzerà la tua vita futura. And if you don't, if there is no afterlife, then at least you get the benefit of the Dharma here in this life. E invece se non c'è una vita futura, almeno avrai i benefici del Dhamma nel qui e ora. So we talked about these fundamental this that law. Che ne abbiamo parlato di questa legge fondamentale del questo e quello. Because that doesn't happen, etc. Perché quello non succede, eccetera, eccetera. We talked about the five laws. Ecco, niyama, the five laws. Abbiamo parlato delle cinque leggi. So the physical, the biological, the psychological, karma and the spiritual laws. Quindi la fisica, la legge fisica, biologica, psicologica, il karma e quelle spirituali. And connecting it with dependent origination. E abbiamo fatto il collegamento con l'originazione dipendente. Specifically to find out where we create suffering and where the suffering will come to an end. E per capire nello specifico dov'è che noi creiamo, in quale anello della catena creiamo sofferenza e dove questa sofferenza può finire. Ecco. I can only hope my words have been of some assistance. Posso solo sperare che le mie parole siano state di qualche aiuto. May you by your committed practice. Che voi possiate con la vostra pratica impegnata either die peacefully or find yourself in a happy realm. O morire pacificamente o trovarvi in qualche sfera celeste felice. Later rather than sooner. Più tardi piuttosto che prima. Oh. Sadhu, sadhu, sadhu. Ah!